Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Far sì che i carnefici sempre più si considerino ostracizzati dal consesso civile, dalla comunità. Fino a che su questi argomenti ci saranno distinguo, ci saranno se e ma, ci saranno atteggiamenti non estremamente puntuali, si creerà anche una sorta di brodo di coltura di queste forme di violenza che sono per loro stessa natura semplicemente aberranti. L'avete sentito, anche se l'audio magari non era chiarissimo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in questa dichiarazione il capo della polizia Gabrielli a proposito delle violenze sulle donne, dei femminicidi, dell'ultimo caso, quello di Noemi, di cui torneremo a parlare anche questa sera, ha detto: la società, la comunità sociale deve ostracizzare senza distinguo, senza tanti tentennamenti, i carnefici, insomma, no, quindi vanno condannati anche proprio al di là, insomma, di quello che poi è il percorso giudiziario, anche dalla stessa società. Ieri ne abbiamo parlato ampiamente del caso di Noemi e stasera ci ritornerò con due ospiti e per dare anche due tagli particolari. Uno naturalmente è quello relativo alla domanda che ci poniamo costantemente, al di là di che cosa fare. Ieri ci chiedevamo quali sono le nostre reazioni anche come persone comuni, no? E quindi anche come, che contributo possiamo dare noi singolarmente. Ma oggi parliamo di magistratura perché, come in moltissimi casi di femminicidi, ci sono state delle denunce prima di arrivare alla situazione estrema, però pare anche in questo caso inascoltate. Quindi che cosa devono fare le forze dell'ordine, le istituzioni, la magistratura in questo caso? Lo chiederemo a un magistrato del Tribunale di Milano e poi le critiche che sono state fatte ad alcuni media, in particolare alla televisione, per come ha trattato questa vicenda. Per i vostri messaggi, per le vostre opinioni, i vostri commenti, lo sapete, ci sono sempre due canali privilegiati che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Poi parliamo di molte altre cose, tra le quali anche per esempio questo record negativo della Sicilia di NEET, cioè di giovani che né studiano né lavorano purtroppo in Europa. Soltanto due stati, la Guyana francese e una regione della Bulgaria, sono sopra la Sicilia per questo record così negativo. Direi di cominciare come sempre con la sintesi della giornata e poi approfondiremo i vari argomenti. La ragazzina uccisa dal fidanzato in Puglia, il ministro della giustizia Orlando invia ispettori per verificare se vi siano state inadempienze dopo le denunce della madre. Il ragazzo scrive un biglietto ai genitori dicendo: l'ho fatto per voi. Minorenne segregata a Firenze, promessa in sposa per 15.000 euro, si salva chiedendo aiuto a una chat, arrestato il padre e Save the Children denuncia la mancanza in Italia di una legge contro i matrimoni forzati. Economia, Confindustria alza le stime di crescita ma emergenza per la disoccupazione giovanile e nel rapporto Eurostat la Sicilia al top in Europa per il numero di NEET. Telefonia, pronte le sanzioni per gli operatori, le fatture siano mensili, avverte l'autorità garante per le comunicazioni. L'inchiesta sui fondi della Lega, Salvini denuncia, bloccati i conti del partito, i PM vogliono farci fuori e Renzi attacca, soldi rubati, ridateli. Il Mose di Venezia, condannato a 4 anni l'ex ministro Altero Matteoli, assoluzione per l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. I casi di chikungunya nel Lazio, sangue dalle altre regioni per fronteggiare l'emergenza dopo il blocco delle donazioni e il presidente di regione Zingaretti rassicura: non ci saranno problemi per la rete sanitaria. Calcio in Europa League, l'Atalanta ha battuto 3-1 l'Everton, il Milan ha battuto 5-1 l'Austria-Vienna, ora è la volta della Lazio. Partiamo quindi dal caso ancora della sedicenne uccisa dal fidanzato in Puglia, denunce incrociate da parte dei familiari dei ragazzi e il ministro della giustizia Orlando che manda gli ispettori. Si è fatto tutto il possibile perché l'omicidio di Noemi potesse essere evitato? Se lo chiede il ministro della giustizia Orlando, che ha disposto accertamenti sulla procura per i minorenni di Lecce, e anche il CSM, che ha chiesto al comitato di presidenza l'apertura di una pratica sul caso. Si vuol far luce sui motivi per i quali nessun provvedimento cautelare è stato mai preso nei confronti dell'assassino reo confesso 17enne di Noemi, che era noto per i suoi atteggiamenti violenti. Non solo, era già in cura al SERT per uso di droghe leggere, in un anno aveva subito 3 trattamenti sanitari obbligatori. Su di lui lui pesavano uno o più denunce per lesione ai danni di Noemi presentate alla procura per i minorenni di Lecce dalla mamma della sedicenne, esposte a cui la famiglia del ragazzo aveva risposto qualche giorno dopo presentando a sua volta una denuncia contro Noemi per atti persecutori nei confronti del figlio. Quest'ultimo adesso si trova in una casa protetta. Durante l'interrogatorio ha cambiato più volte versione, prima ha parlato di gelosia, poi l'accusa contro la sua vittima, l'ha uccisa con un coltello che lei stessa aveva portato perché voleva sterminare la mia famiglia. L'arma non è stata ritrovata. Per conoscere con certezza le cause della morte della sedicenne occorrerà aspettare l'autopsia in programma sabato o al più tardi lunedì. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E molto, come vi dicevo, si sta discutendo su come i media stanno trattando la vicenda, in particolare le TV. Ce ne occuperemo tra poco, così come cercheremo di capire, come avevo anticipato, qual è l'iter da seguire per una denuncia a seguito di violenza e perché così spesso le denunce delle vittime vengono inascoltate, come anche nel caso di Noemi. Un'altra vicenda relativa a un'altra ragazzina, 13 anni, era stata promessa sposa per 15.000 euro e fino ai 17 anni, dai 13 ai 17, è stata tenuta segregata in casa. È accaduto a Firenze, una ragazzina serba di etnia Rom, oggi 17enne. Nel 2013 il padre avrebbe preso accordi con un connazionale in Francia per vendere la figlia versando un anticipo di 4.000 euro. La ragazza si è salvata riuscendo a contattare un coetaneo in una chat di un gioco su un telefonino. Il padre è stato arrestato con l'accusa di riduzione in schiavitù. Questo ha portato Save the Children, l'organizzazione non governativa, a denunciare che nel nostro paese manca un monitoraggio del fenomeno dei matrimoni forzati, dei matrimoni delle ragazzine, che nel mondo ogni anno riguarda circa 15 milioni di ragazze che si sposano prima di aver compiuto i 18 anni e di queste 4 milioni prima dei 15 anni. È indispensabile, dice Save the Children, rafforzare la rete di protezione con il coinvolgimento in particolare delle istituzioni scolastiche, degli operatori sociali. È anche necessario dotarsi di un registro nazionale per analizzare i casi emersi e allo stesso tempo, secondo quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul, introdurre anche in Italia il reato relativo ai matrimoni forzati. Una lacuna, dice giustamente Save the Children, che un paese come il nostro non può permettersi di avere. Siamo all'economia, cresce quella italiana, in questi anni sono stati recuperati posti di lavoro, i numeri del centro studi di Viale dell'Astronomia di Confindustria sono positivi, ma avvertono gli industriali, pesa la disoccupazione giovanile. Confindustria rivede al rialzo le stime di crescita del PIL italiano, più 1,5% quest'anno, più 1,3% il prossimo. Segnali di ripresa arrivano anche sul fronte dell'occupazione, ma resta l'emergenza per quella giovanile, avverte il centro studi di Viale dell'Astronomia, secondo cui la fuga degli under 40 all'estero nel solo 2015 è costata all'Italia 14 miliardi di euro. Su giovani e produttività, il presidente di Confindustria Boccia chiede di fare di più nella prossima legge di bilancio. A nostro avviso un piano di inclusione giovani che possa aiutare i giovani a essere inclusi nel mondo del lavoro, quindi c'è una questione di priorità temporale e un'attenzione evidentemente alla detassazione sui premi di produzione, perché aiuterebbe le nostre imprese allo scambio salario-produttività, che è una delle grandi questioni paese. Nonostante i segnali positivi bisogna andare avanti con le riforme, avverte dal canto suo il ministro dell'economia Padoan. Il rischio più serio, sicuramente un rischio molto serio, è quello di pensare che il peggio sia passato e che quindi meno o poco resti da fare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di disoccupazione giovanile, va alla Sicilia, come vi dicevo, il triste primato fra le regioni in Europa per il numero di giovani che non studiano e non cercano lavoro tra i 18 e i 24 anni, i cosiddetti NEET. Di questo poi, anche di questo argomento parleremo questa sera nel corso di Effetto Notte. Telefonia, altro tema che approfondiremo, sanzioni agli operatori di telefonia che non rispettano l'obbligo di scadenza mensile della fatturazione, quanto deciso questo dall'Autorità per le Comunicazioni, che ha deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici TIM, Wind, Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni. E poi appunto più tardi cercheremo di capire meglio di cosa si tratta. Ora la politica è giudiziaria con l'inchiesta sui fondi della Lega. Oggi 14 settembre succede una cosa che non è mai successa nella storia della Repubblica Italiana, ossia per mano della magistratura si prova a mettere fuori legge un partito. Avete sentito il leader della Lega Salvini, scontro a distanza tra lui e Matteo Renzi sulla sentenza di condanna di primo grado alla Lega per irregolarità nella gestione dei fondi pubblici. Il leader del Carroccio ha convocato una conferenza stampa per annunciare che la procura avrebbe deciso di bloccare i fondi del partito a garanzia dei soldi utilizzati in maniera impropria da Bossi. Il segretario del PD Renzi ha detto: soldi rubati, ridateli. Replica del leghista: vergognatevi, vergognati a Renzi. Sarebbe preoccupante che un segretario di partito, dice Salvini, che si chiama democratico, se ne freghi di quanto dice la Costituzione, ovvero che un cittadino è innocente fino al terzo grado di giudizio. E poi invece per l'inchiesta sul Mose, l'ex ministro Altero Matteoli è stato condannato a 4 anni di reclusione e a oltre 9,5 milioni di euro di multa per corruzione nell'inchiesta Mose, quel sistema ingegneristico di chiuse per salvare Venezia dall'acqua alta. Esce illeso dal processo invece per assoluzione o prescrizione di parte delle vicende ascritte l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, che era accusato di finanziamento illecito ai partiti. Questo l'ha deciso il Tribunale di Venezia. Corruzione nella sanità. Arriva da Monza la nuova bufera nel sistema sanitario: tangenti per la fornitura di protesi. Dall'associazione per delinquere alla corruzione e al falso, fino all'ipotesi di lesioni volontarie. Questi reati a carico dei 12 medici arrestati, di cui 3 chirurghi specialisti in ortopedia, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Monza su un giro di mazzette per la fornitura di protesi in vari ospedali, tra i quali anche il Policlinico di Monza, che precisa però di essere estraneo alla vicenda. Per altri 9, 6 specialisti e 3 medici di base sono scattati i domiciliari, per altri 6 invece la misura della sospensione. Denaro, regali e viaggi per agevolare l'acquisto di protesi di bassa qualità, sistemazioni in cambio del disturbo, così gli indagati nelle intercettazioni. In manette, oltre ai medici, anche un responsabile commerciale e un agente della Ceraver, la società produttrice di protesi. Nel sistema, messo in atto tra il 2014 e il 2017, i medici di base avrebbero avuto il compito di individuare i pazienti, soprattutto anziani, per le operazioni chirurgiche da effettuare, operazioni anche non necessarie. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non ci sarà emergenza sangue nel Lazio dopo lo stop alle donazioni per i 17 casi accertati di chikungunya, il virus trasmesso dalle zanzare. Lo assicura il presidente della regione Zingaretti, un caso anche nel modenese. È un residente di Casinalbo l'uomo che ha contratto la chikungunya in provincia di Modena e già questa notte nella zona sarà condotta la disinfestazione. A Roma invece l'ordine è stato impartito, ma non si è ancora passati all'azione. L'assessore all'ambiente Montanari comunque respinge le critiche. Non c'è stato nessun ritardo, dice. Dopo la segnalazione dell'ASL abbiamo dovuto aspettare che smettesse di piovere. In lingua swahili chikungunya significa ciò che curva, perché oltre a febbre alta, mal di testa, vomito, provoca fortissimi dolori articolari. Per ridurre il rischio di contagio, il Centro Nazionale Sangue ha disposto il blocco delle donazioni nella ASL 2 del Comune di Roma e nel Comune di Anzio. Alberto Argentoni, presidente dell'Associazione Nazionale Donatori, l'ABIS. Il Centro Nazionale di Sangue stima che ci voglia un apporto da extra regione o da extra Roma per almeno 200-250 sacche di globuli rossi al giorno. Adesso dovremo fare delle chiamate straordinarie, ci stiamo attrezzando per questo. Bisogna quindi resistere fino a che disinfestazioni e generale inverno non avranno ragione delle zanzare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo anche di dolcificanti. Arriva questa notizia: usare molti dolcificanti artificiali aumenta il rischio di ammalarsi di diabete. Infatti, un consumo anche solo di 2 settimane è risultato associato ad alterazioni importanti della risposta dell'organismo allo zucchero. Questo lo rivela una ricerca di Richard Young della Adelaide Medical School University di Adelaide in Australia, che quindi confermerebbe i risultati di precedenti studi in cui si era già intravisto un collegamento tra uso di dolcificanti artificiali o di bibite cosiddette diet che li contengono e rischio diabete. Il lavoro sarà presentato al meeting annuale della European Association for the Study of Diabetes in corso a Lisbona. Per chiudere con il calcio c'è il nostro Giovanni Capuano. Ben 3 partite di Europa League, anche se in campo adesso c'è la Lazio, le altre sono già finite a favore delle italiane, vero Giovanni? Sì, oggi finalmente raccontiamo delle belle notizie per le squadre italiane che sono state a modo loro autrici di due imprese. La prima impresa, l'impresa vera, l'ha fatta l'Atalanta, che tornava nell'Europa del calcio dopo 26 anni e ha battuto 3-0 l'Everton, squadra di medio livello della Premier League in cui gioca Rooney, che è una delle leggende del calcio inglese. Atalanta che è stata straordinaria, ha chiuso la contesa tutta nel primo tempo con i gol di Masiello, Gomez e Cristante, poi nella ripresa ha controllato e in questo momento è in testa al suo girone l'Atalanta, perché l'altra gara, quella che vedeva impegnata il Lione in trasferta sul campo dell'Apollo, è finita 1-1 e dunque Atalanta che mette bene il girone. Dopo i primi 90 minuti si giocava a Reggio Emilia, uno stadio riempito dai tifosi arrivati da Bergamo per questo appuntamento storico che è diventato doppiamente storico. Ha esordito bene in Europa League anche il Milan, che aveva davanti un avversario non trascendentale, l'Austria-Vienna, si giocava nel mitico ex Prater. Milan che ha vinto per 5-1 e si è segnalato André Silva, autore di una tripletta con tre gol tra l'altro pregevoli. Poi gli altri gol del Milan sono stati segnati da Çalhanoğlu, che ha segnato l'1-0 con un bel destro sotto l'incrocio dei pali, e poi da Suso, che è stato autore della quinta rete pochi istanti dopo essere entrato in campo. In mezzo c'è stato il gol dell'Austria-Vienna con Borkovic su l'unica distrazione difensiva della formazione di Montella. Dunque Milan che cancella in questo modo la brutta caduta di domenica scorsa all'Olimpico, il 4-1 incassato dalla Lazio. Lazio che è in campo in questo momento ad Arnhem in Olanda contro il Vitesse. Sono passati 11 minuti, il risultato è fermo sullo 0-0, è una Lazio con tanto turnover dopo la vittoria contro il Milan, ad esempio è fuori Immobile, che è stato protagonista della gara di domenica scorsa, fuori anche Lulic, Basta, Milinkovic, Savic, ci sono tanti ragazzi a partire da Caicedo, che è un attaccante molto interessante, che questa sera avrà forse la prima occasione, la prima ribalta per mettersi in mostra. Siamo nel 12° minuto, Lazio che si è vista con un attacco di Lukaku, palla sull'esterno della rete, partita però fin qui equilibrata. A te, Roberto. Grazie Giovanni Capuano, vedremo se mantieni allora l'equilibrio anche durante la puntata di Effetto Note, così ci aggiorniamo più tardi. Intanto ci prendiamo questa pausa per dare le notizie a chi sta viaggiando, notizie sul traffico. Intanto arrivano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Tra poco, tornando sulla vicenda di Noemi, vi chiederò e ci chiederemo insomma perché tante denunce vengono inascoltate, tante denunce di violenze sulle donne e poi finiscono in questo modo. E poi l'altra domanda è fino a che punto si può spingere o si deve spingere il diritto di cronaca, a proposito delle polemiche di cui poi parleremo sulla trasmissione Chi l'ha visto. C'è Natascia da Prosecco che scrive: i tempi dell'ex Jugoslavia, a proposito della notizia della ragazzina segregata per anni per essere venduta a un uomo molto più grande di lei, dice: i tempi dell'ex Jugoslavia era pratica frequente la vendita delle ragazzine zingare in moglie, poi sono migrati in Italia. C'è stata un'inchiesta anche qualche giorno fa che riguarda Palermo e molte ragazzine rome in questa situazione, ma non sono purtroppo soltanto loro. Ha ragione Save the Children a dire che in Italia manca una legge a questo punto sui matrimoni forzati. A tra poco. Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi, le notizie ve le ho riassunte in questo racconto della giornata, come sempre all'inizio, non perdete l'inizio di Effetto Notte alle 21 puntualmente, poi ogni tanto vi ricordo anche le notizie più importanti, però seguite tutta la trasmissione dalle 21 alle 22 in modo di essere costantemente aggiornati su quello che succede di più importante dall'Italia e dall'estero. Adesso, vi dicevo, torneremo sulla tristissima vicenda, sull'ennesimo femminicidio, quello di Noemi. Intanto i vostri messaggi stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per messaggi WhatsApp. Per esempio Stefano dice: benché molto giovane, già da anni l'assassino di Noemi aveva definito la sua vita di relazione all'insegna della violenza e della prevaricazione, la relazione sentimentale gliene ha offerto una più intensa possibilità, ma in questo paese, scrive Stefano, dove la pratica della bontà è un mestiere molto ben remunerato, sarebbe stato uno scandalo intervenire prima. I lamenti che si levano quando un'altra ragazza muore mi sembrano ululati alla luna. Questo insomma, diciamo, inerente questo messaggio di Stefano appunto alla domanda perché tante denunce rimangono inascoltate. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto vi ricordo ai più ritardatari quali sono le notizie più importanti di oggi. Ius Soli, Gentiloni rilancia il disegno di legge, ma la maggioranza è divisa. Il presidente del PD Orfini spinge per mettere la fiducia su questo disegno di legge, ma gli alfaniani sono sulle barricate. E poi, sempre per la politica, bloccati i fondi della Lega. Salvini fa una conferenza stampa in cui lo dice, attacca i giudici. Renzi però replica, lui fa la morale, ma il Carroccio ha rubato i soldi, li deve restituire. Per il femminicidio di Noemi, il fidanzato scarica su di lei la colpa, dice voleva uccidere i miei genitori. Intanto Orlando, ministro della giustizia, per le denunce ignorate della mamma di Noemi, manda gli ispettori in Puglia. L'autorità garante per le comunicazioni dice ai gli operatori telefonici obbligo di bollette mensili non a 28 giorni, sanzioni per chi trasgredisce, questo è il monito. Confindustria, che per quanto riguarda la nostra economia alza le stime del PIL, ma ricorda emergenza giovani. Intanto nel rapporto Eurostat la Sicilia è al top in Europa per il numero di NEET, ragazzi che non studiano e non lavorano. Per il progetto di Venezia Mose, per le chiuse, per salvarla dall'acqua alta, condannato a 4 anni l'ex ministro Matteoli in questa inchiesta, assolto l'allora sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Poi altri 10 casi di chikungunya nel Lazio, portata dalla zanzara, sangue da 10 regioni, arriva dopo il blocco appunto delle donazioni. E poi anche paura per Bocelli, è caduto da cavallo Andrea Bocelli, ha subito un trauma cranico, però tranquillizza i suoi fans e dice sto bene. Quindi l'ultimo caso per ora purtroppo della mattanza senza fine delle donne anche nel nostro paese, un paese come il nostro che dovrebbe essere civile. In Italia pensate che ogni 3 giorni una donna muore per mano di un uomo, mentre 1.150.000 donne in Italia hanno subito uno stupro o un tentativo di stupro. Questi sono dati che non è che semplicemente sono così da ascoltare da un orecchio e farlo uscire dall'altro. Su queste cose è un paese il nostro che si deve interrogare e deve dare delle risposte. Dicevo, l'ultima è la storia di Noemi, ragazzina di 16 anni che cercava l'amore, come testimoniano i suoi post su Facebook, l'amore vero, ed è stata ammazzata dal fidanzato di 17 anni in provincia di Lecce. Ieri si parlava appunto di queste pietre, lui nell'ultimo interrogatorio ha detto che l'ha uccisa con un coltello, il coltello col quale lei avrebbe voluto invece uccidere, sterminare la famiglia di lui. Adesso lui si sta difendendo in questo modo, lei ovviamente non può più replicare. Mentre amici e parenti di Noemi dicono che lui era gelosissimo, possessivo, violento, che la picchiava spesso, anche il cugino lo dice, anche un'amica che dice lei... aveva provato una volta, siccome le piacevano le moto, a guardare una moto e lui l'ha picchiata, l'ha lasciato la faccia piena di lividi perché dice lei amava le moto, ma lui era convinto che avesse guardato il ragazzo che c'era sopra, lei manco lo aveva visto quello, dice questa amica. Violento tanto che qualche settimana fa la mamma di Noemi aveva denunciato la procura per i minorenni di Lecce, la madre in Marizzo aveva denunciato il ragazzo perché l'aveva picchiata, lei ancora portava i segni sul viso. La donna temeva per la sorte della figlia, chiedeva ai magistrati di intervenire per far cessare il comportamento violento di lui, per allontanarlo. La famiglia poi del fidanzato ha sporto denuncia a sua volta dopo qualche giorno da questa denuncia, dicendo che era lei che perseguitava lui. Comunque dalla denuncia della mamma di Noemi erano sortiti 2 procedimenti, uno penale per violenza privata, l'altro civile per verificare il contesto familiare in cui viveva il giovane. In realtà poi non se n'è più saputo niente, insomma questi procedimenti poi non è seguito nessun provvedimento cautelare, non so, come per esempio il divieto di avvicinarsi alla sedicenne. E allora il ministro della giustizia Orlando oggi ha deciso di mandare degli ispettori per verificare se la denuncia della mamma poteva evitare l'omicidio, e così anche il vicepresidente del CSM Legnini ha detto che bisogna assolutamente fare chiarezza se ci sono omissioni, inadempienze in questo caso. Allora, quello che ci si chiede ogni volta, a parte che cosa si può fare, cosa possono fare le istituzioni, le forze dell'ordine, eccetera, è anche perché le denunce restano inascoltate. Di questo voglio parlare con il dottor Fabio Roia, che è magistrato di Milano, giudice e presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale del Capoluogo Lombardo. Dottor Roia, buonasera, benvenuto, bentornato. Buonasera a tutti voi. Lei che cosa risponde a questa domanda e soprattutto che cosa prevede l'iter di una denuncia di questo tipo? Come funziona? Una donna che subisce maltrattamenti, violenze, eccetera, che cosa fa e che cosa poi devono rispondere anche le istituzioni, forze dell'ordine, i magistrati? Allora, oggi le leggi per quanto riguarda quindi gli operatori di polizia e gli operatori in generale, addirittura le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, che è il vertice organizzativo di tutti gli uffici giudiziari, impongono che le denunce che riguardano i cosiddetti reati catalogo della violenza di genere, cioè maltrattamenti, stalking e violenze sessuali, abbiano una trattazione prioritaria da parte di magistrati che devono essere specializzati nell'affrontare questo tipo di reati. Magistrati sia della fase inquirente, quindi pubblici ministeri, sia giudici. Io credo che i femminicidi non siano eventi inevitabili, non sono dei temporali, delle frane, che in qualche modo possono essere previsti ma non evitati. Quando succede una tragedia come quella che stiamo parlando di Noemi, c'è sempre un qualcosa che non ha funzionato. Quindi bene ha fatto il Ministro della Giustizia, ma anche lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, è molto importante questo atto da parte dell'organo di autogoverno della magistratura, a verificare se per caso la magistratura interessata in questo caso abbia effettuato delle omissioni, perché se ci dovessero essere delle omissioni, dei ritardi, è giusto che poi debbano essere assunti dei provvedimenti su un piano di responsabilità disciplinare, civile ed eventualmente penale. Dottor Roia, io poi ricordo un caso particolarmente emblematico, diciamo che tantissimi casi di donne che poi sono finite uccise ricordano anche questo di Noemi, delle denunce che erano state fatte e poi non c'è stato nessun procedimento cautelare. Per esempio il caso, uno dei più emblematici, è quello di Mariana Manduca di Palagonia, vicino Catania, che denunciò per 12 volte il marito finché poi il marito arrivò a realizzare il suo obiettivo, che fu quello di ucciderla, e di recente, lei ricorderà, la Corte di Appello di Messina ha condannato i magistrati che lasciarono libero di agire Saviero Nolfo, ha stabilito la Corte che ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei pubblici ministeri. Evidentemente si continua a prendere molto sotto gamba questo terribile fenomeno che riguarda anche il nostro paese, oppure bisogna chiedersi quali effettivi strumenti hanno le forze dell'ordine e i magistrati? No, gli strumenti ci sono. Molte volte noi magistrati diciamo che non ci esistono le leggi, è colpa del legislatore e della politica che non interviene. Questa volta non possiamo adottare questo alibi. Le leggi europee, le leggi italiane sono state fatte, gli strumenti sono molti, sono efficaci, sono strumenti che possono mettere in sicurezza la vittima attraverso una custodia cautelare in carcere dell'aggressore, che è la misura più grave in fase di custodia cautelare. Il problema, come dicevo, è che questi istituti devono essere applicati. Gli uffici giudiziari, questo è un fatto notorio, sono soffocati da carte, sono soffocati da vicende, però bisogna avere il coraggio di mettere da parte le vicende, come dire, secondarie e dare priorità a questi casi che riguardano la vita delle persone. Quando una donna denuncia bisogna assolutamente verificare la fondatezza della denuncia, attivare, fare gli elementi di riscontro, verificare la veridicità del racconto e poi adottare tutti gli strumenti di cautela. Questo, ripeto, lo impone la legge, ma lo impongono anche le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel caso che lei ha citato, il Tribunale di Messina ha affermato un principio di responsabilità. Quei magistrati che dovevano fare un qualcosa che poteva essere fatto non l'hanno fatto. Allora, quando una donna è in una situazione di pericolo, noi diciamo che c'è un intervento di rete, perché noi non possiamo dire alle donne denunciate e poi lasciamole sole. Appunto. Assolutamente no, sarebbe sbagliato. Noi dobbiamo dire correttamente donne denunciate, ma deve scattare poi un meccanismo di rete di protezione che deve innanzitutto fare una valutazione del rischio. Questa donna è veramente esposta a un pericolo? Se sì, bisogna mettere nell'immediatezza della denuncia la donna in sicurezza, dopodiché però bisogna mettere la donna nella condizione di rientrare nella sua vita normale attraverso la custodia cautelare in carcere, l'adozione di altre misure a carico dell'agente violento. Questa è la risposta che una cultura giuridica di civiltà come la nostra deve dare, altrimenti è barbari. Appunto, dice Alessio, scrive questo ascoltatore: cara Roberta, da tecnico, quindi evidentemente non so, fa parte delle forze dell'ordine, ti dico che è anche un problema di organizzazione delle forze di polizia, delle procure, dei servizi sociali. Una situazione di questo genere, ti posso garantire che a Milano, se la famiglia si fosse rivolta al nucleo tutela donne e minori della polizia locale, che lavora in procura all'ufficio prevenzione generale della questura di Milano, non sarebbe successo successa perché rigidi protocolli prevedono che la giovane venisse immediatamente posta in una struttura protetta e che ci fosse un'assidua attività di controllo, pedinamento del giovane, eccetera, eccetera. Ma fino a quando la politica non capisce che questi problemi vanno risolti con l'organizzazione delle forze di polizia in campo, non cambierà mai nulla, avremo altre poveri giovani morte. Insomma, noi continuiamo a ripeterci queste cose, dottor Roia, però da dove deve arrivare davvero un monito chiaro e definitivo che le cose vanno fatte in un certo modo? Allora, innanzitutto, al di là di quello che diciamo meritoriamente anche in trasmissioni come queste, che ci diciamo il 25 novembre e l'8 marzo, che sono le giornate celebrative, oppure nei convegni, bisogna praticare ogni giorno quello che noi diciamo, quindi agire più che parlare. Secondariamente, l'ascoltatore ha sicuramente ragione, ci sono realtà dove l'intervento è più efficace. Lui ha fatto riferimento di Milano, però ricordo a me stesso, come dicono gli avvocati, che la Lombardia ha il primato di donne uccise in Italia. È vero che è un dato riferito sulla popolazione che è maggiore in Lombardia rispetto ad altre regioni, però anche laddove ci sono prassi virtuosi, magistrati, operatori specializzati, non si riesce a prevenire il femminicidio. È anche vero che vanno messe delle risorse, qualche soldo va speso in questo settore, perché a fronte di investimenti mostruosi che per esempio adesso ha fatto la Spagna attraverso un piano nazionale che prevede interventi a livello di prevenzione primaria, mi riferisco alle scuole, a livello di formazione di tutto il personale che interviene nel servizio di rete, qualche soldo va speso. In Italia non si spendono molti soldi per la prevenzione in questo settore. Ma ripeto, io non amo, come dire, piangere, dover dire bisogna fare, altri devono fare. Dobbiamo noi per primi fare qualcosa. Oggi gli strumenti li abbiamo. Dobbiamo applicarli rendendoci conto che non possiamo permettere di correre il rischio di trascurare una denuncia, perché quella denuncia può rivelare un pericolo, e se c'è quel pericolo e si verificano poi casi drammatici, è giusto che poi qualcuno ne risponda. Certo. Grazie dottor Fabio Roia, la ringrazio molto. Buona serata, grazie, buona continuazione. Ora c'è l'altro aspetto delle critiche che sono piovute soprattutto su chi l'ha visto, trasmissione di Rai 3, che ieri sera ha mandato in onda un'intervista ai genitori del ragazzo presunto assassino di Noemi, e nel corso di questa intervista la cronista, a un certo punto, le è arrivato un messaggio sul telefonino, ha dato notizia ai genitori durante questa intervista che il loro figlio aveva confessato l'uccisione di Noemi. Sentiamo giusto questo passaggio, non andiamo oltre anche sulle altre dichiarazioni e reazioni dei genitori, sentiamo giusto questo. Le voglio dire quello che mi stanno, che sta uscendo in questo momento. Hanno trovato la ragazza. Beh, sono contento. È morta. No! Morta, e Lucio ha confessato. Questo mi arriva, non so altro. Beta mia. Quindi fino a che punto arriva il diritto di cronaca? Diciamo che sono arrivate a puntare l'indice contro la scelta di questo tipo sono i sindacati dei giornalisti, critiche anche dall'AIART, che è l'associazione cattolica che si occupa della TV. Ne voglio parlare con Nicola Marini, presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Buonasera Nicola Marini. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Volevo solo dire che le critiche sono arrivate anche dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Naturalmente, se non ti chiamavo in causa. In questo caso, come ci si deve comportare? Nel senso, il diritto di cronaca c'è, ma bisogna anche sempre naturalmente rispettare la deontologia professionale, no? Quindi norme etiche nel dare l'informazione. Certo, il diritto di cronaca si ferma nel momento in cui ci sono responsabilità di minori, e questo è un aspetto importante. Noi abbiamo la carta di Treviso, che tu ben conosci e la conoscono tutti i giornalisti italiani, certo, per la tutela dei minori, delle famiglie, dei soggetti deboli, il rispetto della dignità umana. Questo è importante considerare. In questo caso, che secondo me è stata scritta una bruttissima pagina di giornalismo televisivo, e mi dispiace che l'abbia fatto la RAI, ma non per motivi sentimentali. Sono stato un giornalista RAI fino a pochi anni fa, quindi anche la RAI ha un codice etico interno che non consente di fare queste cose. Un codice etico che si rifà ai principi generali della deontologia della professione. Qui ci sono di mezzo i minori, lo abbiamo detto, ma c'è anche un'altra aggravante, secondo me. L'aggravante che questo è un servizio registrato. Nella diretta possono succedere tante cose, lì deve essere bravo il giornalista a chiudere magari il microfono e la telecamera. Qui invece siamo di fronte a una cosa diversa. Quando c'è una registrata, un servizio registrato, e lo mandi in onda, quella è una scelta editoriale ben precisa. E quindi mi meraviglia che la RAI possa aver mandato in onda un servizio del genere. Lo dico con grande delusione. Presidente, quindi questo per quanto riguarda chi l'ha visto e questa, qualcuno dice appunto, spettacolizzazione del momento di dolore, della rivelazione ai genitori che il figlio ha confessato. Poi c'è un altro aspetto, sempre sulla RAI, in realtà è La vita in diretta su Rai 1, dove la madre del presunto assassino legge un biglietto che lui ha scritto ai genitori. Vogliamo sentire un passaggio? Mi ha lasciato un bel biglietto e ce l'ho nella borsa. Quello che ho fatto è stato per l'amore che provo per voi. Noemi voleva che io vi uccidessi per poter avermi con sé. Solo un fallito, sono un fallito e mi faccio schifo. Lucio, ti voglio bene, mamma e papà. Basta! In questo caso, Presidente Marini, può darsi che anche la difesa stessa, no, spinga le persone a utilizzare anche i media in un certo modo, perché qui sarà anche la linea difensiva, no, del ragazzo, certo, che scrive il biglietto, certo, dice, certo, l'ho uccisa per voi perché lei avrebbe voluto uccidere voi, i miei genitori. No? Certo, è una linea difensiva che ovviamente... Ecco, in questo caso quindi i media che devono fare? Devono bloccare quella volontà, non so, di un genitore come in questo caso di leggere in onda, in diretta il biglietto, oppure devono assecondare questa... Ma qui io non vedo delle violazioni deontologiche palesi. La violazione deontologica, se c'è nell'altro servizio di chi l'ha visto. Qui non le vedo, certo. Approfittare dei media per esporre già la tesi della difesa, insomma, mi pare inopportuno, ecco, da questo punto di vista, più che una violazione deontologica. Ma ripeto, il grave è avvenuto ieri sera. Io non avevo visto la trasmissione, l'ho vista registrata e devo dire che mi ha fatto male, ma mi ha fatto male come telespettatore. Per cui noi che dobbiamo vigilare, che siamo i custodi della deontologia, poi dobbiamo intervenire per frenare questi fenomeni, perché ne va della... buon nome di tutta la categoria. Grazie Nicola Marini, presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Grazie a Nicola. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Ci fermiamo a questo punto, dobbiamo prendere assolutamente una pausa e poi ci sono gli altri temi. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Ancora arrivano molti vostri messaggi sull'argomento che abbiamo trattato sinora, relativo al caso di Noemi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS, che poi leggerò se c'è tempo nel corso della puntata. Adesso però cambiamo argomento, vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti, che sono appunto sempre il caso della ragazzina uccisa dal fidanzato in Puglia. Il ministro della Giustizia Orlando invia ispettori per verificare se vi siano state inadempienze dopo le denunce della madre della vittima. E poi minorenne segregata a Firenze, promessa in sposa per 15.000 euro, si salva chiedendo aiuto su una chat, arrestato il padre, e Save the Children denuncia la mancanza in Italia di una legge contro i matrimoni forzati. Per l'economia, Confindustria alza le stime di crescita, ma dice che sempre emergenza occupazione della disoccupazione giovanile, poi ne parleremo in merito soprattutto al caso Sicilia. E poi per quanto riguarda la telefonia, pronte le sanzioni per gli operatori, le fatture siano mensili, avverte l'autorità garante per le comunicazioni. A proposito di giovani, c'è questo brutto record per la Sicilia. Secondo Eurostat, che è l'Istituto di Statistica Europeo, l'isola è un gradino più basso del podio tra oltre 200 regioni del vecchio continente dell'Europa per la percentuale di giovani NEET, cioè l'acronimo inglese che significa Not Engaged in Education, Employment or Training, cioè non impegnati in studio, lavoro, ricerca e impiego, cioè né studiano né lavorano. La Sicilia ha il record in Europa di giovani quindi che non vanno a scuola e non cercano impiego. Peggio della Sicilia solo, pensate, la Guyana francese e una regione bulgara. I dati allarmanti pubblicati un paio di giorni fa dall'OCSE sulla situazione lavorativa in Italia trovano quindi conferma in questa indagine di Eurostat. Il tasso siciliano di ragazzi tra 18 e 24 anni, che appunto si possono definire NEET, è del 41,4%. Allora, voglio chiedere come mai di questa situazione a Bruno Marziano, che è assessore all'istruzione della Regione Sicilia. Buonasera Marziano. Buonasera ai nostri ascoltatori. E grazie della disponibilità. Ecco, come si spiega questa, insomma, un record veramente molto molto avvilente? Ma, guardi, non ho motivo assolutamente di dubitare delle indagini, dei sondaggi, anche perché coincidono più diversi istituti e diverse istituzioni. Penso che una delle cause, se non la principale, sia da imputare al fatto che il mondo della formazione in Sicilia negli anni scorsi, 5, 4 e 3 anni fa, è stato investito da vere e proprie bufere giudiziarie, con arresti di presidenti di enti e quant'altro. E questa è la parte, diciamo, di giovani che non sceglie la scuola ordinamentale, ma il percorso formativo nei corsi di formazione. Addirittura c'è stata un'annualità, l'anno scolastico 2015-2016, che non è stato assolutamente svolto. Detto, e quindi questo mi fa pensare che dal momento in cui la formazione per adulti si è paralizzata per quelle vicende giudiziarie e l'obbligo formativo è saltato per le conseguenze di questa paralisi generale, si possano avere quei dati assolutamente drammatici. Ecco, penso di poter dire però che in questi due anni abbiamo cercato in modo, come dire, quotidiano, straordinario, di superare questa situazione. Nel corso di questo anno scolastico in Sicilia si è recuperato l'anno scolastico perduto 2015-2016, quindi si sono avute contemporaneamente 900 classi di ragazzi che erano in dispersione, cioè che avevano saltato l'anno scolastico, con circa 18.000 giovani che sono tornati nel percorso formativo. E con questo secondo anno abbiamo finalmente allineato la formazione professionale, cioè il percorso di FP, cosiddetti corsi di obbligo formativo, con la scuola ordinamentale. Sono partiti oggi 262 corsi e nelle prossime settimane partiranno gli altri 180. È uno sforzo straordinario che è servito a rimettere in piedi un pezzo del sistema formativo. Assessore Marziano, ma lei quando prevede che diciamo la Sicilia esca da questa classifica così negativa? Lo sforzo che stiamo facendo in questi due anni, nell'arco di ancora un anno, possa dare i suoi risultati. Voglio citarvi alcuni dati. Abbiamo finanziato in questi due anni, con 35 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, 530 giovani laureati che per ciò stesso non andranno via dalla Sicilia e proseguiranno il loro percorso di lavoro e di vita nella nostra isola. Abbiamo già fatto un primo bando. Stiamo puntando molto su alternanza scuola-lavoro. Due mesi fa è uscito un bando che finanzierà i primi 330 ragazzi che faranno l'alternanza scuola-lavoro, cioè l'apprendistato durante il periodo di obbligo formativo. Anche questi li toglieremo alla dispersione scolastica, perché sono ragazzi che avrebbero bisogno di lavorare e magari avrebbero lasciato la scuola. Speriamo, Marziano, che possa essere sufficiente, perché sa, essere dietro solo alla Guyana francese e a questa regione della Bulgaria, insomma, no. Poi il 5 novembre ci saranno le elezioni, speriamo che, oltre a pensare alle alleanze, chi con chi, si pensi veramente a risollevare la Sicilia, soprattutto da questo punto di vista, no, assessore Marziano? È stato di primo e terzo livello, questo sta incentivando quelle forme di rientro nel mondo della scuola e di avvio nel mondo del lavoro. È un percorso faticoso, non si potrà fare tutto in pochi mesi, ma ritengo che abbiamo invertito la tendenza. Ce lo auguriamo. Anche perché mi creda, l'ultimo dato che voglio darle: una delle ragioni che ha portato a queste situazioni è la carenza di infrastrutture scolastiche. in questi due anni ho finanziato con i fondi trasferiti dallo Stato 170 istituti che sono potuti ristrutturare totalmente e abbiamo in piedi un imponente piano di edilizia scolastica che ne finanzierà almeno altri 400. Insomma, vari progetti. Assessore Marziano, speriamo che chi vorrà governare la Sicilia per i prossimi anni, visto che appunto il 5 novembre ci saranno le elezioni, tenga molto presente questi aspetti che non sono più derogabili. Grazie Assessore Bruno Marziano, buon lavoro allora. Grazie. Viabilità. Ferkam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree marittime in tutto il mondo. Ferkam.com. Vi presenta Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti ormai le conoscete, questa sera ve le ho ricordate più volte: la ragazzina uccisa dal fidanzato in Puglia, il ministro della giustizia Orlando e anche il CSM inviano ispettori e vogliono fare delle verifiche per capire se ci sono eventuali inadempienze dopo le denunce della madre della vittima. Minorenne segregata a Firenze per 4 anni, promessa in sposa per 15.000 euro, si è salvata chiedendo aiuto su una chat e è stato arrestato il padre. Per l'economia, Confindustria, che vede le stime di crescita in rialzo, però lancia un monito, un appello sull'emergenza per la disoccupazione giovanile. Abbiamo parlato appena adesso della situazione della Sicilia, che ha la maglia nera per quanto riguarda i NEET, i giovani tra i 18 e i 24 anni che ne studiano né lavorano. E Giovanni Capuano ci chiede la linea per l'Europa League, caro Giovanni. Sì, è appena finito il primo tempo ad Arnhem, la Lazio è sotto 1-0 contro il Vitesse, questa è la prima parziale brutta notizia di un giovedì che invece fin qui è stato trionfale per le squadre italiane. Il Lazio che è sotto per il gol al 33esimo di Matavs, un bel gol, il Vitesse l'ha meritato, un traversone sul secondo palo che il giocatore degli olandesi è riuscito a tradurre, lasciato libero in rete. Vitesse che a parte i primi minuti un paio di occasioni concessa a Caicedo in realtà ha giocato meglio della Lazio, sta giocando con più ritmo. Il Lazio che si è presentato con parecchie seconde linee questa sera in Olanda per questo debutto in Europa League. Un debutto, dicevamo, che invece è stato felice per Milan e Atalanta. L'impresa l'ha firmata l'Atalanta battendo 3-0 l'Everton, squadra della Premier League, però fa rumore anche il 5-1 con tripletta di André Silva, con cui il Milan ha vinto la prima partita in trasferta a Vienna contro l'Austria Vienna. Milan e Atalanta che sono prime nei rispettivi gironi, Lazio che invece ha un tempo a disposizione per ribaltare la situazione contro il Vitesse. A te Roberta. Grazie Giovanni Capuano, grazie Giovanni. Adesso vedo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Bettina scrive: anni fa avevo sentito a Milano un vicino che picchiava la compagna, chiamai la polizia, ma visto che non seppi dare il cognome per suonare sul citofono, mi dissero che non sarebbero venuti. L'unica cosa che potetti fare, dire la cosa ad altri vicini, che mi confermarono che era frequente e che nessuno mai aveva chiamato la polizia. A proposito di cosa possiamo fare noi in questi casi di violenza sulle donne, poi sul diritto di cronaca, Francesco scrive: spesso il punto non è quel che si dice ma come lo si dice, preferisco un ampio diritto di cronaca a forme di censura moralistica purché lo si eserciti con professionalità. Mentre per Antonella, a proposito del caso di chi l'ha visto sulla vicenda Noemi, dice: pornografia del dolore e basta, sarebbe ora di smetterla. Ora invece coinvolgo il nostro Enrico Pagliorini. Caro Enrico, buonasera. Ricordatevi Enrico, il venerdì dopo Effetto Notte c'è 2024, la tecnologia portata di mano con il nostro Enrico. Oggi ci spieghi invece questa storia dell'autorità garante, questa decisione, autorità garante per le comunicazioni, che ha deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti di operatori telefonici sulla fatturazione. Cos'è? Sì, allora partiamo da marzo. A marzo la GCOM, l'autorità per le comunicazioni, aveva fatto una delibera dicendo: cari operatori di telefonia mobile, ricordiamo che parliamo solo di telefonia mobile a scanso di equivoci e non di telefonia fissa e non di telefonia mobile. Questo è importante. Telefonia fissa, quindi anche collegamenti ad internet, e non telefonia mobile. Cari operatori, la bolletta che arriva a casa dei clienti deve essere inviata su base mensile o comunque il mese, può essere anche bimestrale, ma non più su base 4 settimane, visto che è una moda che è nata negli ultimi mesi dagli operatori che hanno cominciato a passare questa fattura. Quindi ogni 28 giorni la facevano? Sì, sì. Allora il risultato è che alla fine dell'anno, invece che 12 fatturazioni, 12 bollette, ne abbiamo 13, con un aumento subdolo dell'8,6%. L'autorità era intervenuta, gli operatori avevano 90 giorni per cambiare, per tornare alla fatturazione mensile, non lo hanno fatto, addirittura hanno fatto ricorso al TAR, il TAR però si pronuncerà a febbraio. Allora, nel frattempo Agicom ha detto: dovete adeguarvi, a questo punto noi avviamo una procedura per sanzionarvi, per darvi una bella multa. Gli operatori adesso hanno 150 giorni per eventualmente giustificare, cosa che penso non possano fare, e poi arriveranno queste multe, a meno che gli operatori cambino strategia e tornino alla fatturazione mensile. C'è un'altra via, perché in Parlamento si sta discutendo di questa possibilità, cioè di fare per via legislativa un obbligo di fatturazione mensile, anche per evitare che, appunto, oltre che sulla telefonia fissa, questa cosa arrivi anche in altri settori. Devo dire che per quanto riguarda la telefonia mobile, invece, la Agcom, l'autorità, ha detto sì, nel campo mobile c'è un po' più di concorrenza, il mercato è un po' diverso e quindi potete fare la fatturazione ogni 28 giorni, ogni 4 settimane. Vedremo come andrà a finire, dicevo, ci sono 150 giorni e poi aspetteremo quello che eventualmente farà il Parlamento, perché questo darebbe un taglio a tutte le discussioni, se ci fosse una legge che nascerà, speriamo, auspicabilmente nei prossimi mesi, oppure un altro giro di boa potrebbe essere questa decisione del TAR, se il TAR darà ragione o meno agli operatori o alla Agcom. Io presumo che ci siano tutti gli elementi per dar ragione ad Agcom, ma non possiamo non è scontato prevedere nulla, ovviamente. Sì, perché Angelo scrive, abbiamo ancora proprio meno di un minuto, dice: buonasera, come mai nel settore telecomunicazioni in tutta Europa, compresa Svizzera e Inghilterra, solo in Italia c'è il cartello delle 4 settimane? Non è vero, in Gran Bretagna, io ho fatto una ricerca, in Gran Bretagna c'è una ci sono alcuni operatori che fanno la fatturazione ogni 4 settimane. Sì, sentivo la sirena, evidentemente non mi stanno venendo a prendere. Ecco, no, anche perché domani ci devi essere tu, dopo effetto notte con 2024. Sì, sì, sì. Grazie Enrico Pagliarini. Buona serata. Ciao Enrico. Ora noi ci lasciamo brevemente, poi sapete che alle 22 vi ricordo le notizie principali.